sol cadrà, al sol cadrà. Chi già fu del biondo crine, del biondo crine, consigliero al sol cadrà. Con I gigli e con le rose, tanti inganni alla verità, soffra pur le sue ruine, se suo vente li compose. Con I gigli e con le rose, tanti inganni alla verità. Consigliero al sol cadrà.